Appello. Ademo Elisabetta. Presente. Bozzini Emanuela. Presente. Calderon Clelia e Leo. Presente. De Angelis Marco. Presente. Obbligo di frequenza. Di Maria Piera Ceci. Ha 18 anni e frequenta l'ultimo anno al liceo scientifico Amaldi di Alzano, in provincia di Bergamo. Luca Ghidelli ha vinto le Olimpiadi di Matematica che si sono tenute di recente a Cesenatico ed ora punta a riconoscimenti internazionali. Sentite qua cos'è la matematica per Luca. Boh, è qualcosa da fare un po' nel tempo libero perché mi appassiona, quindi come uno farebbe, che ne so, l'enigmistica quando non sa cosa fare, faccio matematica. Beh, poi anche quello che per altri può essere uno sport, quindi una passione che si coltiva un po' così, con un po' di allenamento ogni tanto. Tu alleni la mente anziché il corpo? Sì, beh, per il corpo, tipo, quando devo andare in un certo posto ci vado a piedi piuttosto che in macchina, così così. Per la mente, appunto, c'è la matematica. Ti aiuta anche a crescere, secondo te? Ma sì, un po' è una sfida contro me stesso ogni volta. E nel caso delle gare anche una sfida contro il tempo, perché c'è anche un tempo limitato per risolvere gli esercizi. E poi, praticamente con la matematica ho viaggiato un sacco tra gare internazionali, cose così. Ci sono stati alcuni anni in cui sono andato in vacanza proprio grazie alla matematica, quindi anche un modo per viaggiare, per conoscere, sì, anche altre gente, persone. Rivederli l'anno dopo ancora, un po'. Ti sei già fidanzato con una matematica come te? E purtroppo c'è una carenza di ragazze di solito a queste competizioni. Tutti maschi? Non proprio tutti, però la percentuale è molto elevata. Senti, come ti guardano i tuoi compagni di scuola? Come un mostro? Un mostro no, di certo. Ma più che altro uno a cui chiedere consigli quando ci sono dei dubbi. Fai copiare, sì? No, copiare no, mai. Non lo puoi dire perché hai di fianco a te il preside. No, non copio, non faccio mai copiare. Aiuto prima delle verifiche, poi durante la verifica copiano fra di loro. Ognun per sé. Bene, adesso la fase successiva quando sarà? Praticamente domenica parto per un'ulteriore selezione e se sono tra i primi sei dovrei farcela. E praticamente vado in Kazakistan a luglio. Alle prove internazionali? Sì, sì. Allora, in bocca al lupo e spero davvero di risentirti dopo quell'occasione per festeggiare con te anche questo traguardo. Grazie. Ed ora parliamo di libri di testo, tanti e soprattutto cari. Le indicazioni del governo non sono ancora arrivate, mi riferisco ai tetti stabiliti ogni anno e che le scuole sono tenute a non superare, anche se molte si lamentano che con le nuove superiori si sono aggiunte alcune materie, quindi naturalmente servono testi in più. Comunque, in attesa dei tetti, vogliamo tornare su un'iniziativa di cui abbiamo parlato lo scorso anno e che nel frattempo ha fatto strada. Vi ricordate il liceo Maiorana di Brindisi? Il preside ebbe la bella idea di abolire sostanzialmente i libri di testo, sostituendoli con testi scritti dagli stessi insegnanti, dei book in progress, perché ovviamente possono essere aggiornati continuamente. E con una spesa di 14 euro circa per le fotocopie, i ragazzi avevano dunque tutti i loro bei testi senza svenarsi. Dicevamo un'iniziativa che ha fatto strada, come ci racconta Silvia Landi, responsabile scuola di Adiconsum. Beh, piano piano sta diventando, da un'esperienza di eccellenza iniziata in una sola scuola, appunto, la Maiorana di Brindisi, ad un'esperienza ripetibile in più scuole. Ad oggi sono coinvolte 14 scuole, un po' di tutta Italia, che vanno dal nord al sud. Tra l'altro si sta ampliando l'offerta di book in progress messa a disposizione degli studenti da parte degli insegnanti, quindi una esperienza che andrebbe sicuramente valorizzata e che sta dimostrando essere un'esperienza ripetibile in tutti i contesti, in tutto il paese. Vogliamo raccontare bene che cos'è il book in progress? Il book in progress è un'esperienza appunto nata in una scuola dove gli insegnanti si sono messi a scrivere i libri di testo per gli studenti, fondamentalmente. Anche perché così non si possono più lamentare che i libri di testo non sono buoni, come spesso fanno dopo averli adottati, troppo, eccetera. Quindi una un'attività che ha fortemente valorizzato quello che è ovviamente il ruolo dell'insegnante anche all'interno dell'istituto scolastico e nel rapporto con gli studenti, nato appunto con all'inizio semplici dispense o libri per pochissime materie, che piano piano si è andato sviluppando. Cosa è successo? Che il Majorana, sulla scorta della sua esperienza, ha messo disponibilità questi libri di testo, chiedendo alle altre scuole di entrare in rete con loro e agli insegnanti di valorizzare i libri di testo che erano già stati scritti, ampliandoli, verificandoli, scrivendoli con loro. Quindi ogni opera, ogni libro di testo diventa di fatto un'opera collettiva fatta da più insegnanti che mettono il meglio del loro sapere in quel libro. E lo studente cosa fa? Stampa queste dispense? No, non stampa neanche più le dispense, è la scuola stessa a stamparle e rilegarle attraverso delle convenzioni e a darle in dotazione agli studenti, quali pagano cifre veramente irrisorie, perché arrivano a pagare 30 euro una dotazione di 14 libri, quindi di 14 materie, rispetto a quello che è l'acquisto ovviamente dei libri di testo classici, che è molto più alta. E chissà come saranno contenti mamma e papà da non dover tirare fuori tutti i soldi che purtroppo sappiamo di dover tirare fuori per i libri di testo. Quant'è il risparmio? Avete fatto qualche stima? Arriva anche a 300 euro di risparmio per una famiglia. Poi ogni scuola ovviamente, come dire, valuta se adottare tutti i libri attualmente disponibili, solo alcuni, dove è possibile, dove è meglio, perché comunque l'insegnante ha una libertà nell'adozione del libro di testo che vuole utilizzare con i propri studenti. Tra l'altro questo ha aiutato le scuole a rispettare i famosi tetti di spesa che il Ministero pubblica ogni anno e che ancora quest'anno non ha pubblicato e che spesso venivano sforati con le dotazioni dei libri appunto scelti dagli insegnanti. Insomma, un risparmio di 250-300 euro a studente e davvero non è poca cosa per una famiglia che magari ha anche più di un figlio a scuola. Ma ritorniamo a Brindisi, torniamo dunque al Majorana, scuola capofila di questa iniziativa, perché già per un anno i ragazzi hanno studiato su Booking Progress, anzi stanno ancora studiando in questi giorni, la scuola non è finita. E dunque è tempo di bilanci. Bilancio che facciamo con il preside Salvatore Giuliano. Allora, il lavoro è in progress, appunto. Abbiamo monitorato i risultati degli apprendimenti dei nostri allievi e abbiamo riscontrato un significativo miglioramento. I dati ci danno questo, come dire, questo conforto e questa certezza. Ora, con il lavoro di tutti, quindi dei docenti coinvolti nella rete, che ad oggi sono 243, per l'esattezza, sicuramente i materiali che verranno resi disponibili agli studenti e quindi alle famiglie sicuramente miglioreranno in qualità e anche in quantità. Le famiglie cosa fanno? La ringraziano tutti i giorni per questa cosa? Le famiglie certo sono contente, ma gli apprezzamenti più belli e che ci spingono ad andare avanti provengono dagli alunni. In maniera anonima abbiamo detto loro di pensare, di scrivere ciò che pensavano e pensano del book in progress. I risultati sono entusiasmanti, lo facciamo per i nostri alunni e quindi è giusto che sentiamo loro per avere appunto dei dati in merito al nostro progetto. Perché? Cosa dicono? Cosa gli è piaciuto in maniera particolare? Beh, frasi bellissime che, ripeto, ci incitano ad andare avanti, del tipo uno strumento facile da utilizzare, un qualcosa di diverso che ci spinge a fare sempre di più. Ecco, questo sostanzialmente il riassunto dei numerosi dati raccolti negli alunni. Però lei, Salvatore Giuliano, è un uomo che ha un sacco di idee, evidentemente, che si diverte a fare il preside anche così, mettendo in atto la fantasia, facendo lavorare la fantasia, perché quest'anno ha anche pensato ad un'altra cosa molto interessante e a costo praticamente zero per quanto riguarda le ripetizioni. Sì, esattamente, attraverso delle aziende multinazionali che lo stanno facendo a scopo di investimento, quindi a con nessun rientro, realizzeremo a partire dal prossimo anno una piattaforma web dove i docenti si metteranno a disposizione per fornire gratuitamente o comunque con piccoli compensi ripetizioni agli alunni. Questo per evitare di distaccare molto il processo degli apprendimenti da quello di eventuale recupero appunto degli stessi. Non solo, ma questo progetto con questo progetto cercheremo anche di far lavorare, ovviamente parliamo di piccoli numeri, ma insomma potrebbero crescere, di far lavorare anche i docenti cosiddetti precari che in virtù anche della riforma e della riduzione dell'orario non dovessero trovare lavoro, insomma. Restano fuori dal mondo della scuola. Esattamente. Questo eviterebbe dunque il mercato delle ripetizioni, che come sappiamo è un mercato piuttosto redditizio ma anche dispendioso per le famiglie, e forse lei come preside potrà risparmiare un po' su questi corsi di recupero che ogni tanto insomma i soldi ci sono o non ci sono. Sì, ma a parte il fatto dei soldi che ci sono o non ci sono, e il concetto, che a mio modestissimo avviso è completamente sbagliato, molte volte si fanno i corsi di recupero quando è troppo tardi, cioè si fa un corso di recupero dopo 3 o 4 mesi dall'inizio delle lezioni, quindi è difficile che l'alunno possa recuperare. Questa iniziativa invece ci dà la possibilità di accorciare enormemente i tempi fra lezione ed eventuale corso di recupero e quindi probabilmente ottenere migliori risultati. È tutto, ci risentiamo sabato prossimo come sempre alle 12.45 per riascoltare questa trasmissione come tutte le altre, radio24.it. Un saluto da Maria Piera Ceci.